molto bene, ragazzi. Questa settimana tutti i convocati sono minimo 7 gol. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che sì, pensa a tiro, poi giù, calcio di rigore. Fallo di Santon di rara ingenuità. Parte Piniglia. Col destro andano di stocca, ma non basta. L'Atalanta passa il vantaggio a 2 minuti e mezzo dalla fine con Maurizio Piniglia, 2-1. Noi facciamo questo, facciamo delle cose che sono un po' più profonde delle vostre, che vi limitate a dire ogni giorno se arriva questo, arriva quello, avete contattato questo o quell'altro. Noi non abbiamo contattato nessuno, De Boer, e sfido chiunque a dire che è stato contattato. Sono in tanti che si propongono, questo è diverso, perché la panchina dell'Inter la vorrebbero praticamente tutti, ma la panchina dell'Inter è di Frank De Boer. Cioè, ragazzi, al Milan state a vedere quante volte entra Galliani o quante volte entra il direttore, o alla Juve piuttosto che al Napoli o alla Roma, perché non lo leggo, non l'ho mai visto da nessuna parte. All'Inter siamo lì tutti i giorni, pranziamo e stiamo insieme all'allenatore, tutti i giorni parliamo di calcio con l'allenatore. Come fa a essere definito solo un uomo così? Occhio a Bruno Fernandes, che prova a girare, attenzione, tocco in mezzo per Quagliarella, 1-0 Samp, gol convalidato, tutti i difensori dell'Inter a protestare, Quagliarella fa 1-0 sotto la Sud. No, copertina sbagliata, perché oggi giorno di festa, dedichiamo in diretta tutta la puntata a badminton e curling, perché sennò poi ci dicono che parliamo sempre dell'Inter. Io e Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, così abbiamo deciso. 800240024 se volete intervenire. Dolcetto o scherzetto? Da oggi Frank De Boer non è più l'allenatore dell'Inter, come volevasi dimostrare. Comunicato della società, risoluzione del contratto è già di ritorno verso l'Olanda, ma ci facciamo raccontare la mattinata nerazzurra da chi l'ha vissuta e sta vivendo questa ennesima giornata di, beh, lasciatemi dire, di grande confusione, ma mi vengono molte altre parole. Marco Barzaghi, inviato di Mediaset Premium. Ciao Marco. Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Una giornata complicata, l'ennesima, non si può mai stare tranquilli. Ci sono motorini in giro? Spero di no. No, oggi no, siamo tranquilli. Speriamo di non essere bersagliati ancora da qualche pazzo che ci viene incontro. No, adesso è stata una giornata complicata, è successo quello che tutti avevano capito, non solo nella giornata di ieri, ma nelle ultime partite in campo c'era una situazione abbastanza sfuggita di mano al tecnico olandese. Tanti giocatori che ormai non lo seguivano più. Questa mattina lui stava preparando già la sfida col Southampton, si pensava potesse esserci ancora lui in panchina, poi il gruppo Suning ha preso questa decisione radicale dopo 83-84 giorni di passare subito la mano, squadra affidata a Stefano Vecchi, il tecnico della primavera, anche per la partita con il Crotone. Si attende che Suning, che è il figlio di Zhang Jindong e Steven Zhang, con i suoi collaboratori più stretti, rientri in Italia anche per procedere poi a formalizzare il nuovo allenatore, che qui usiamo ancora un attimo il condizionale, dovrebbe essere Pioli il candidato suggerito dalla dirigenza, da Ausilio, da Gardini, da Zanetti, un normalizzatore per arrivare almeno a fine stagione, però sorprese sono sempre dietro l'angolo. Bravo. Come la storia insegna, soprattutto in casa interista, non si può mai dormire sonni tranquilli. No, la scelta più razionale e logica sarebbe quella di Stefano Pioli, che, come dicevi tu giustamente, è appoggiata dall'anima, diciamo così, italiana e operativa dell'Inter, Zanetti, Gardini e Ausilio. Poi arriva la proprietà cinese, arriva Suning, non si sa bene, Tohir, cui oggi è mancato il papà, tra l'altro, che ha il 30% delle quote in attesa di cederne, ancora presidente, ma ex presidente, però operativo, è lui che ha scelto De Boer, non so quanto c'entri lui nella decisione di sollevare De Boer. Nel weekend arriverà la rappresentanza della proprietà cinese guidata da questo ragazzo di 25 anni che non so quante conoscenze abbia di pallone. Allora, l'anima italiana, dice Stefano Pioli, l'anima su, per quanto riguarda l'anima Suning, si fanno i soliti nomi esotici, da Hidding a Tata Martino, leggevo e sentivo a Villas-Boas, che a Villas-Boas essere... addirittura Marcelinho, Marcelino come soluzione a sorpresa dall'estero, anche perché ha già lavorato all'Inter con Mourinho, conosce l'italiano, è libero, è portoghese e vicino a chi ha Jorabkian, che ricordiamo è l'eminenza grigia che ha suggerito anche lui De Boer, che ha portato Gabigol e João Mario e che è il consigliere più ascoltato, e vedremo se lo ha ancora in base a questa decisione da Suning. Anche da qui capiremo i rapporti di forza nuove all'interno dell'Inter. A proposito, potete intervenire anche oggi, siamo in diretta 800240024, anche se solo fino alle 15, e solo per oggi, perché giornata di festa, giornata speciale, poi avremo un appuntamento dopo le 15 con Dylan Dog, che è un filo conduttore di questa particolare, di questa giornata di festa. Ma stiamo parlando del fumetto Inter, 14 partite, di cui 7 perse, 5 in Italia e 2 in Europa, questo è lo score di De Boer, quindi tu dici Villas-Boas, ennesimo tecnico straniero, ennesimo salto nel vuoto, ma credi che possa cambiare qualcosa al vertice della società, possa essere presa qualche decisione per quanto riguarda la dirigenza attuale? Non credo, almeno penso che anche Tohir vada avanti, a meno che con la morte del padre non ci siano altre decisioni o impegni che più gravosi da magari con le aziende di famiglia, ma penso che si vada così almeno fino a fine stagione. Poi bisogna capire se Moratti rientrerà, se Tohir cederà il 30% delle sue quote, insomma tutto può cambiare, ma non credo che lo faccia prima che Suning rimetta a posto il bilancio, anche per appunto un discorso economico. Ma tu per chi, cioè dammi due percentuali, così tanto stiamo navigando a vista, Pioli o soluzione straniera, Villas-Boas o Hidding o chi per loro? Per me è Pioli, però chiaramente con la Cina c'è un po' di differenza di, non solo di fuso orario, quindi teniamoci un 10% sulla soluzione estera, però al 90% dovrebbe essere Pioli, sempre che lo titolo liberi dal contratto che ha ancora con la Lazio, perché anche quello in estate è stato un problema con Pioli, che non è riuscito poi a trovare un accordo e andare ad allenare l'Udinese. Vedremo se adesso con l'Inter, che gli offre un anno e mezzo di contratto, farà questo passo e riuscirà a liberarsi. Ecco, per chiudere, che cosa ti aspetti da queste due partite? Tra l'altro quella con il Southampton è estremamente importante, perché in questo girone tutto sommato ridicolo, l'Inter ha perso due gare ridicole, ha vinto soltanto con il Southampton ed è ultima. Quindi qualcuno diceva lasceranno che l'olandese si incagli contro lo scoglio Southampton e poi lo solleveranno dall'incarico. Lo scoglio Southampton invece toccherà a Vecchi, normalizzerà l'Inter? Me lo auguro per lui, però sicuramente non gli aspetta una missione facile, anche perché abbiamo visto il Southampton, squadra di livello, che in Premier League ha messo in difficoltà anche il Manchester City di Guardiola. Insomma, ho paura in un Verdelli bis, però spero che non accada, che i giocatori, soprattutto come è stato chiesto oggi da parte della società, adesso che non hanno più alibi, mettano veramente il cuore in campo, cosa che non tutti hanno fatto fino a questo momento. Chiaro, perché adesso emerge comunque la lista degli arrabbiati guidati da Condombia e da altri giocatori anche un po' più improbabili. Gabigol non si è mai visto, insomma le accuse mosse a De Boer anche sulla gestione della rosa sono state tante. Marco, buon lavoro, ne avrai tanto oggi. Grazie Marco. Grazie Mazzaghi, grazie. Inviato di Mediaset Premium. C'è chi scrive, perché ci sono anche messaggi e WhatsApp, 349-238-6666, che come al solito non abbiamo capito nulla. La notizia del giorno è la trasferta di oltre 400 tifosi della Reggiana per una partita di Coppa Italia, di Lega Pro, meravigliosi, Alex da Reggio Emilia. Sì, sarà anche questa la notizia del giorno, grande notizia, bravissimi tifosi. Grande applauso ai tifosi della Reggiana che intendono festeggiare così questo giorno di festività. Mario da Pescara, buongiorno. Mario. C'è Mario da Pescara? Dove è andato? Ma non lo so, sarà andato a mangiare i dolcetti del giorno del di festa. Allora facciamo così, fermiamoci per il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, intanto Napoli. In un girone sia equilibrato, è chiaro, tutte le partite sono difficili e sono determinanti. La partita di domani è un mattone verso la qualificazione, sia per noi sia per gli avversari, ma è... in un girone così sono tutte partite che vanno a incidere fortemente sul risultato finale. Per noi questa partita è quasi come una finale. Sappiamo che sarà difficile, ma il nostro obiettivo domani è vincere. Se vinciamo e siamo più vicini all'obiettivo che la qualificazione, in mentalità stiamo bene. È vero che abbiamo perso una partita importante sabato, ma sappiamo che siamo una squadra forte. Sera a Napoli gioca una partita di estrema importanza sul prato del Besiktas, dopo essersi complicato la vita in casa con gli stessi turchi. Tanto poi torneremo ovviamente a parlare di Inter con sto seguendo la cronaca, Pioli è arrivato a Milano, è ancora sotto contratto con la Lazio, però è appunto a Milano in attesa che arrivino i cinesi. Vecchi allenerà l'Inter, confermato Stefano Vecchi, non solo con il Southampton in Europa League ma anche con il Crotone nella partita del weekend. Raffaele Auriemma, che piacere! Eccomi, ciao! Ciao, come stai? Buon pomeriggio a tutti! Senti, dammi una battuta sull'Inter. Ti sei fatto un'idea di tutto questo casino, di tutto questo pandemonio prima di passare al Napoli e a una tremarella che io credo eccessiva nella partita col Besiktas? Ma cominciando con l'Inter e l'estrema analisi e la sintesi di come ci si complica l'esistenza senza essercene la necessità. A cominciare dall'esclusione di Mazzarri, con quel allontanamento repentino, di lì in avanti c'è stata tanta confusione e molti soldi investiti a vuoto. Ora ancora di più, perché se premi un allenatore a 10 giorni all'inizio del campionato che non parla una parola di italiano e che non sa nulla del calcio italiano, e che si ma non sa nulla e né poteva imparare nulla in quella situazione lì, in un contesto sprovvisto di una dirigenza che lo proteggesse e con un gruppo che è anche parecchio sfilacciato. Sì, sì, questo è evidente. Di errori ne sono stati fatti tanti, il primo dei quali, appunto, o l'ultimo dei quali, quello di chiamare Frank de Boer, che bravissima persona, per carità, però si è dimostrato, secondo me, anche vagamente presuntuoso nella gestione della... Oggi ha lasciato tutti con un Instagram, era un progetto per cui sarebbe servito più tempo, questo l'ha ripetuto 1000 volte, ma all'Inter, con i denari, vabbè, il tempo non ce l'hai e quindi non puoi pretendere di arrivare dalla luna, qual è l'Olanda, e gestire questa situazione. Andiamo invece sul Napoli. Io sento grande timore per l'assenza questa sera, ormai è un'assenza che dura da un po' e molti gol sono passati sotto i ponti del Napoli, di Albiol. Partita, dai Raffaè, questa sera sul campo del Besiktas, 18:45, dato il fuso orario, insomma, il Napoli deve fare il risultato e ha tutto per fare il risultato. Tutto, ma soprattutto un elemento che dovrà dimostrare di avere questa sera: il carattere, la cattiveria, il saper soffrire realmente in una situazione che sarà davvero infuocata, perché adesso siamo in taxi sul Bosforo e vediamo già i tifosi del Besiktas che si stanno portando verso la Vodafone Arena, perché sono convinti di poter pistare il successo di 15 giorni fa. Manca il Biol, ma fortunatamente il Napoli ha scoperto di avere comunque due ottime alternative come Kirikes e Maximovic. Io dico che manca soprattutto l'attaccante centrale una volta era Higuain e poi era diventato Milik. Il Napoli ha segnato 20 gol nelle prime 8 partite di questa stagione, ne ha segnati soltanto 8 nelle successive. E lo sappiamo. Quanto male ti ha fatto il gol di Higuain? Quello di sinceramente non tanto. Non tanto. Se l'avesse fatto un difensore che era passato dal Napoli alla Juventus ci resti male e pensi cavoli, segna proprio lui, ma nel caso di Higuain segna solo lui, nel Napoli lo conosciamo bene e mi sarei meravigliato del contrario. Higuain è stato il calciatore che ha segnato la storia del campionato italiano con i 36 gol e secondo me neanche tra 66 anni ci sarà qualcuno che migliorerà questo dato. E poi è stato anche pagato 90 milioni di euro. Certo. Con tutti questi soldi, vuoi che un calciatore non ti faccia neanche gol? Sì, adesso si parla tanto di Pavoletti, bisogna aspettare però gennaio. È ufficiale il ritiro dal calcio di Miroslav Klose, capocannoniere assoluto nella storia dei mondiali, 16 reti mondiali. Io un pensierino a un ripiego l'avrei fatto. Stasera gioca a Gabbiadini, in cui il rapporto con Sarri mi sembra un po' di amore e odio, mi sembra un po' complicatello, però torna lui al centro dell'attacco. Senza che ci sia nulla di personale, però. No, non dico, proprio un rapporto difficile e tecnico. Diciamo che anche con Insigne adesso c'è un rapporto non proprio sfavillante, sì. Però loro due che hanno il muso lungo e hanno probabilmente anche qualche ragione personale per star così. Ci sono partite e momenti in cui tu dimostri agli altri che hai ragione a vantare certe pretese. Questa partita è uno di quei momenti. Sì, sia Insigne che Gabbiadini devono dimostrare di essere calciatori sui quali l'allenatore sta sbagliando. E allora l'unico modo che hanno per farlo è quello di fare gol, di portare il Napoli avanti, di far superare questo ostacolo, perché una sconfitta, io non ci voglio neanche pensare, diventerebbe davvero un casino certo, per la Champions che per il campionato. Beh, allora certo, è di una delicatezza estrema. Sì, è un punto di svolta, ma poi è chiaro che se non passi in un girone con Benfica, Besiktas, Benfica e Dinamo Kiev, non meriti di fare strada in Champions League. Ma per chiudere, Raffaele, rapporto complicato con Insigne, però possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che levarlo sabato sera in quel momento della gara, una partita con la Juventus, sia stato un errore? Possiamo ammetterlo tutti dipende. Insieme? Dipende. Se è stata una scelta tecnica, allora l'allenatore decide in quel momento, avrà pensato che Giaccherini potesse dargli di più. Però da quello che è capito attraverso le parole dei protagonisti, non è stata una scelta tecnica, ma motivata dall'esigenza di sostituire un calciatore in difficoltà fisiche, cosa che poi Insigne non ha confermato. Ecco il motivo della disputa con Sarri alla sua uscita. Perché ne è uscita e Sarri rispondeva perché stava avendo i crampi. Basta chiederglielo, basta bene perché mi levi. Cioè, basta chiederglielo, hai crampi? Sì, allora ti levo. Non hai crampi? No, non ti levo perché stai giocando bene. Hai appena fatto un assist da cinema a Callejon. Raffaele, buon viaggio, buon lavoro lì sul Bosforo, sul ponte sul Bosforo. Grazie a Raffaele Auriemma. Io credo che con Mario da Pescara, Attilio da Bologna e molti altri, 800 24 00 24, si torni sul tema Inter. Ricordo, c'è il comunicato ufficiale della società di risoluzione del contratto con l'allenatore olandese, squadra affidata a Stefano Vecchia e al suo staff della primavera per la partita col Southampton e anche quella successiva con il Crotone. De Boer ringrazia tutti e diceva ringrazio i tifosi, dice ci voleva più tempo eccetera eccetera, e se ne torna in Olanda. Intanto Pioli è a Milano, però si attende l'arrivo della proprietà Suning, della delegazione guidata da questo 25enne della delegazione Suning, per decidere se sarà Pioli oppure qualcun altro allenatore dell'Inter. E come vi ripeto, l'anima italiana della dirigenza nerazzurra propende per Stefano Pioli, che sarebbe la soluzione più razionale, ragionevole e corretta, dall'altra parte si parla di Hiddink, Tata Martino, Marcelino, Vilas Boas, Blanc, che però avrebbe già detto di no. Poi torna in ballo il solito Leonardo, ma sembra che le sue quotazioni siano in discesa. Io, come mi ripeto, Leonardo avrebbe preso pronti via appena fatto il passaggio della società come plenipotenziario dell'Inter, cioè quello che hanno fatto dall'altra parte del Naviglio con Fassone. Però sarà una mia idea. Mario! Salve, buongiorno. Oh, dove era prima? Che no. Provato a connetterci. Finalmente una bella notizia dall'Inter, meno male. Via. Guardi, io per lavoro ho a che fare con gli olandesi. Dal primo giorno mi hanno detto questo è stato cacciato dall'Ajax ed è uno che crede di aver inventato il calcio. Vedrete che vi non sarete felici. Questo mi hanno detto 2 mesi fa gli olandesi. Sì, cacciato dall'Ajax dopo aver perso un campionato in stile 5 maggio. Sì. Comunque sono d'accordo con lei, Leonardo con un traghettatore in panca, anche no, un bel cuore nero azzurro tipo Mandorlini, e andava avanti. Però se non è possibile, basta, no, non se ne può più di esotici. Diciamo Pioli che ha esperienza. E adesso le faccio una previsione: a Southampton si vince 3-0 facile in goleada, perché questi mi giocatori... sembra un po' ottimistica come no previ... perché, i giocatori... perché lei dice che i giocatori di cioè, si vedrà che faranno i fenomeni e andranno lì e asfaltano il Southampton, perché sì, è evidente che non è comodo 3-0 a Southampton in questo momento, lo vedo complicato. Però per l'Inter, vista la classifica, ultima in classifica di questo girone, ripeto, ridicolo, è importantissimo fare il risultato. Che i giocatori o una parte dei giocatori non avessero in grandissima simpatia De Boer, se è comunque già intuito a partire da Condombia che ha fatto le sue rimostranze. Per quanto possa fare rimostranze uno che all'Inter però non ha dato nulla, come questo giocatore pagato tantissimo. Attilio da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io faccio una piccola considerazione e poi le faccio una domanda. Sì. Considerazione che secondo me Pioli è un buon allenatore, ma anche se volesse andare su un allenatore straniero, direi che forse è il personaggio più indicato. Oppure... è un uomo di mondo, è un grande conoggitore di calcio. È un grande allenatore. Però, si è trovato allora, in situazioni del genere. Sì, lui è anche un traghettatore perfetto, l'ha fatto molte volte. Però perché seguire di nuovo questa via impervia? Va bene, io lo so, Hiddink potrebbe essere tagliato per questo ruolo. Si tratta anche di capire se alla guida dell'Inter verrà messo il pilota di un traghetto o un allenatore su cui che ha la possibilità quantomeno di guadagnarsi una conferma per il futuro, perché tutti sappiamo che il sogno dell'Inter sarebbe Simeone. C'è Mourinho che magari tra un po' si libera dallo United e tutti farebbero la ola per gli interisti, la ola per la strada, accompagnando il ritorno di José Mourinho all'Inter. Si tratta di capire quale tipo di profilo serve. Secondo me sarebbe molto più funzionale in ogni caso un ingaggio di Pioli, che è un tecnico estremamente pragmatico, che alla Lazio ha fatto molto bene la prima stagione, non gli è andata benissimo la seconda, però è un allenatore estremamente concreto, pragmatico e che ha le idee chiare senza ricerca di grandi fronzoli. Secondo me è ciò di cui ha bisogno l'Inter in questo momento. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi arriverà il maestro Bartoletti. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta? Dai, mezza sigaretta. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rossani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Dinamo, let's go! Tutti convocati. Anche nel giorno del dì di festa non può mancare maestro Marino Bartoletti. Ciao Marino. Buongiorno, che buongiorno. I santi ti siano propizi. Anche a te. Tanto San Carlo anche... arriva a momenti, dai. Sì, arriva, San Carlo arriva a momenti. Un paio di giorni, un tempo era anche festa. Adesso non lo è più. Tra poco arriverà anche Pierluigi Pardo, che è a Manchester a commentare la rivincita tra Manchester City e Barcellona, e vediamo lì, però oggi ci interessano altri temi. Ragazzi, stavo pensando che nella sua megalomania ha due onomastici, a San Pietro sì, e San Luigi. E San Lu- sì, sì, megalomane totale, Marino. Poi ci renderà conto. Allora, devo annunciare al mondo intero che oggi sugli argomenti su cui interpelleremo il professor Bartoletti è lui stesso il DJ. Quindi partiamo da questa. Non so se sia un diesel, ma è nera azzurra quella macchina, Marino Bartoletti. Che nessuno sa dove mettere, sai, quando uno è disperato, non sa dove parcheggiare la macchina, perché non c'è l'autista, perché non c'è il parcheggiatore, perché non c'è la benzina. Povera Inter, Carlo, guarda, veramente, dopo che abbiamo detto e ridetto che ha fatto persino una buona campagna acquisti a sua insaputa, perché sì, evidentemente l'ha fatto lo Spirito Santo, sai, come quello che elegge il Papa. Sì. E poi si ritrova veramente una nave senza nocchiero in gran tempesta, non sì, donna di province, ma bordello, non l'ho scritto io, l'ha scritto un poeta. No, ma io resto convinto del fatto che pensa paradossalmente che l'Inter sia anche una buona squadra, solo che non si può non dare zero alla gestione di questa stagione, no professore? Ma zero non basta, Carlo, zero non basta, cioè veramente chi guida questa macchina, chi ha il timone di questa nave, in che direzione va? Cioè, non farmi fare dei paragoni antipatici, perché poi parliamo sempre degli stessi presidenti, delle stesse società, come dire, che peccano di provincialismo, ma il vecchio Angelo Moratti si sta girando nella tomba, sinceramente. Sì, cioè, la squadra che comunque aveva una linea, una coerenza, una dignità, uno stile, una storia, è una squadra che non sa veramente in che direzione andare. Questo è veramente triste, avendo la macchina oltretutto. Certo, che... certo, io sono profondamente convinto. Cioè, dal punto di vista dell'organico, problemi sugli esterni bassi, come dicono gli allenatori, come piace dire agli allenatori, però mi sembra un organico che sta vicino, quantomeno dovrebbe star vicino a Napoli e alla Roma, che sono quelle che giocano il campionato bis. Poi scegli un allenatore per civetteria, per carità, con tutto rispetto, sì, sì, di De Burronis, voglio dire, però non puoi paracadutare un bravo allenatore in una Babele. Va bene che si chiama internazionale, voglio dire, ma non basta. A tutto c'è un limite. No, ma infatti, Marino, adesso si fanno diversi nomi, cioè l'Animit, ovviamente il casino è totale. Il riassunto è questo: Stefano Vecchi va in panchina col Southampton e poi col Crotone in campionato, poi c'è la sosta della nazionale. Nel weekend arrivano gli emissari di Suning, guidati da questo 25enne che non si sa bene quanto sappia di pallone. L'Anima italiana, Zanetti, Ausilio Gardini dicono Stefano Pioli, e secondo me è la cosa più razionale, poi mi dici la tua. Dall'altra parte invece si fanno i soliti nomi esotici, a partire da Hiddink per finire con Vilas Boas, passando attraverso addirittura Tata Martino. Il quale deve ricominciare a fare lo stesso apprendistato, anche lessicale, che ha fatto il suo predecessore. Cioè ci vuole un'unità di tempo, di luogo e di lingua, l'hanno detto i nostri padri, non lo inventiamo noi, ripeto, al di là del nome di questa società ricca di storia e ricca di amore che tutti gli portano e di rispetto che tutti gli portano, però non puoi paracadutare Forrest Gump in uno spogliatoio, non puoi, con tutto il rispetto per Forrest Gump. Sì, cioè, sì. Qualcuno ci spiega l'operazione Gabigol, c'è un essere umano che ci può spiegare l'operazione Gabigol finito in tribuna assieme a Jovetic? qualcuno sì. ce la spiega. Quando ce l'ha spiegata, allora io mi leggo il cappello davanti alla banda di l'unica persona che potrebbe spiegarli in questo momento è in viaggio per l'Olanda in coda sulla Pero Cormano, come direbbe l'autorità. Ma quindi mi sembra che tu sia d'accordo con me, Pioli sarebbe la soluzione ovviamente più razionale. Sì, assolutamente sì, guarda, io l'ho detto l'altra settimana, devono recuperare un cincinnato italiano, in questo caso Pioli è un meraviglioso cincinnato molto giovane che ha fatto bene dovunque è stato, a parte le incomprensioni finali con la Lazio, ha fatto giocare con grande dignità le sue squadre, molto spesso dando una somma algebrica ai giocatori superiori a quelli del loro stesso valore. L'Inter è una buona squadra, però ditegli vagamente che cosa devono fare, diteglielo, provate a dirglielo, persino quei galantuomini che vengono mandati, parlo di giocatori, che vengono mandati in farsi sbranare in sala stampa alla fine delle partite, non sanno cosa dire, come difendono De Burronis con il naso lungo alla Pinocchio, però poi alla fine, perché sono dei galantuomini, ma di più non possono né dire né fare, cioè loro non sanno cosa fare. Andiamo, allora, andiamo con un altro pezzo scelto dal professor Bartoletti. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Allora Marino, questo grande classico di ogni balera italiana, lo spieghi tu il motivo o lo spiego io? No, vabbè, cominciamo col dire che è stata scritta dal maestro, secondo Casadei, lo Strauss italiano. Lo Strauss italiano. Che sto piangendo e sto ballando il valzer. Poi ti dico perché si parla di Romagna, ma lo devi introdurre tu in quanto conduttore. Sì, allora, il discorso è questo. Io continuo a sentire, e ne ho sentite anche ieri, a vagonate di critiche nei confronti dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Inutile che stia a ricordare quello che ha vinto negli ultimi anni, dove è arrivato negli ultimi anni, perché tanto lo sapete tutti. Perché, ma guarda un po' la Juventus, prima in classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda, gioca male, mamma mia, gioca proprio male, non la si può guardare in faccia. Batte il Napoli 2-1, ma guarda che schifo. Diciamo che l'ingratitudine galoppa. Diciamo almeno questo. Ingratitudine? Beh, chiamiamola così. Insomma, o prevenzione. Perché abbiamo messo Romagna Mia? Abbiamo messo Romagna Mia perché il grande presidente Boniperti disse: visto che a Torino non ci sanno voler bene, sai cosa ti dico? Che io sogno uno stadio per la Juventus in Romagna dove tutti ci vorrebbero. Avremmo potuto mettere anche una canzone siciliana, anche una canzone di un'altra parte d'Italia in cui comunque la Juventus è apprezzata per quello che vale. Penso che non possa non essere apprezzata per quello che fa, sinceramente. Ma no, ma io comunque ti parlavo di prevenzione, dell'essere prevenuti, perché non puoi discutere Massimiliano Allegri. Chi gioca bene in Europa a ottobre di questi tempi? Secondo me la Juventus in campionato è addirittura una squadra che priva pure di giocatori così come altre, Dybala su tutti in questo periodo, mi dà l'idea di essere una squadra che viaggia in quarta. Quando mette la sesta cosa succede? Guarda, tutti all'inizio del campionato dicevamo le stesse cose, qualcuno diceva speriamo che nell'interesse del campionato, speriamo che la Coppa dei Campioni, speriamo che si distraggano. Io auguro, e poi in effetti si fa fatica a capire non qual è l'anti-Juventus, che solo la Juventus può essere l'anti-Juventus, ma l'anti se stesso, cioè non c'è neanche una seconda forza, capisci? Cioè sai quei podi olimpici dove c'è soltanto il primo, poi ci sono, come accade nella ginnastica, 3 nel terzo gradino del podio perché il secondo posto non è stato assegnato. Certo. Non c'è neanche chi valga il secondo posto in questo momento di fronte a questa squadra, e lasciamelo dire, cavalcando anche le fedi, volando oltre le fedi, a questa società, insomma, che sta dando veramente lezioni a tutti di coerenza, di strada da percorrere, di tutto quello che è inutile aggiungere. Non lo possono non convenire anche i non juventini, sinceramente. Ma guarda, i non juventini sono i primi a levarsi il cappello, credo, davanti a Massimiliano Allegri. Sono gli juventini, no, che non lo sopportano. E questo Allegri mi manda ai pazzi. A me questo fa impazzire, ti dico la Allegri verità. Ha dovuto sopportare per un anno, diciamo sopportare, perché qualcuno può essere anche d'accordo, il fatto che il quarto scudetto l'aveva vinto per merito di Conte. Ah, no? Il quinto per una lunga deriva, comunque, perché comunque il quinto l'ha vinto, devo dire, per merito di Conte. Insomma, se vince il sesto scudetto della Juventus per merito lui di Conte, nella storia, io credo che si incominci a essere vagamente merito suo, cioè, Senti, maestro, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, come ben sai, poi entriamo subito con il terzo ed ultimo brano. Tutti convocati, siamo al top, ragazzi, siamo al top. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Domenica, domenica, la sciarpa in sola buca, 30 kg di bandiera innanzi il dresso alla crapa, Fanta e Coca, Fanta Calcio, Coppa Italia, Bundesliga, amuleti a luce rossa che massacrano la sfiga, bottecchini, pagarini, tre grappini che il fa frecce, quello là sembra Caprini, no ma forse le troppecce, carabinieri, celerini, mi controllano dai panini, la mia buca è un bazooka e adesso grido no! Arbitro, arbitro, soffia nel fischietto, 7 giorni che ti aspetto. Arbitro, arbitro, guarda l'orologio. E questo è Davide Ernest Frost. Non parliamo, io e Marino Bartoletti, di arbitri di calcio, ma di giudici di Formula 1 che hanno, secondo me, superato il muro del ridicolo domenica nella gara messicana. Ma non lo dico per piaggeria nei confronti a Ferrari, dico sportivamente parlando. Cioè, noi eravamo rimasti a quando ci scandalizzavamo perché Totti da fanculo Rizzoli, no? Sì. Sì. Diciamo che siamo stati abbondantemente superati a sinistra o a destra, non lo so. Sì, la canzone di matrice calcistica, ma evocavamo la presenza di un arbitro che prenda in bocca quel fischietto e ne faccia un uso legittimo. Cioè, dove va veramente la Formula 1? Io non pretendo, per carità, leggi fiscali, però insomma, dopo quello che è successo domenica scorsa, quando noi ci siamo addormentati sapendo che c'era un ordine d'arrivo già sofferto di per sé, per la verità, ci siamo svegliati, giornali compresi, perché i giornali compresi hanno preso tutti un buco per colpa del fuso orario, che era completamente ribaltato quell'ordine d'arrivo, per cui quello che era arrivato quarto in realtà era andato sul podio, aiutami a ricostruire, no? Sì. Quello che era stato declassato al quarto posto è rimasto quarto, dopo essere stato terzo è diventato quinto. Bravo. Quello che è andato sul podio era arrivato quinto. Beh, insomma, aiutateci a capire. Ma tu sei dell'idea che quegli insulti di Vettel all'arbitro abbiano pesato in questa valutazione? Noi siamo un po' dietrologi, noi in Italia. Io non escludo che abbiano pesato, però l'avrei detto anch'io quella cosa lì, sinceramente. Vabbè, chi non l'avrebbe detta, Marino, dai su. Cioè, facciamo bravi, al di là della Ferrari, al di là di Vettel, al di là di Ricciardo, che peraltro mi è simpatico da morire, c'è anche chi dice che la Ferrari e l'Italia in generale nel mondo della Formula 1 a livelli politici pesa poco, conta poco, ma questi sono altri discorsi. Il punto della vicenda è che questo regolamento che non ti permette, che ti vieta l'agonismo, ti vieta anche l'agonismo, sta ammazzando comunque uno sport che già benissimo non sta. Non solo, Carlo, ma addirittura quella cosa di cui si è sempre parlato nel calcio, la sudditanza psicologica, è arrivata anche nella Formula 1, perché Hamilton non è che abbia fatto molto di diverso rispetto a Verstappen e rispetto a Vettel. Quindi di cosa stiamo parlando? Veramente di cosa stiamo parlando? Guarda, io parlo quasi contro la mia stessa opinione. Verstappen non sta simpaticissimo, perché fa delle cose che un 19enne, insomma, gli farebbero meritare qualche bacchettata sulle dita. È un fenomeno maleducato. Perfetto. E nel motociclismo ne vediamo parecchi, soprattutto nelle formule minori, diciamo così, in Moto 3, in Moto 2, però ci picchia quanto ci divertono, eccetera, eccetera, eccetera. Si educhi il maleducato. Però viva Dio qualcuno che ogni tanto interpreta il suo ruolo di pilota con un po' di decenza e con un po' di coraggio. Lui andrebbe bacchettato. sbagliato, gli altri hanno semplicemente corso, allora si punisce Vettel e non si punisce Hamilton. Esatto. Fatemi leggere il regolamento, esiste un regolamento? Beh, se esiste fatemelo vedere. Sì, è da decriptare, nessuno ha ancora in mano il codice, Marino, quando mi arriva te lo mando. Per posta, non via mail. Grazie, ti abbraccio tanto. Ciao Marino. Un abbraccio a tutti. Ciao Marino Bartoletti. Oh, lo aspettavamo. Un altro maestro, Michele Plastino. Ciao Michele. Ciao Carlo. Ciao come Carlo. Bene, la maledizione del telefono. Ogni volta arrivava la chiamata vostra, c'avevo il telefono non so perché lontano. E quindi mi scuso con voi, anche se il pubblico non lo sa. Non vuol dire. Nessun problema, ma io ti voglio interpellare. Oltre che su una Lazio magnifica, che è una, io ieri ho cercato di, insomma, di dividere una potenziale panchina d'oro di questo inizio stagione tra il giovine Inzaghi e Gasperini, poi non lo so dove va la tua preferenza, ma questo è un altro argomento, e soprattutto sul casino dell'Inter, secondo me tu lo conosci bene, a Roma, sponda Lazio, secondo me ha fatto la sua avventura è stata da 7.5, tolte le ultime incomprensioni con Lotito. È Pioli l'allenatore giusto per quel casino che si chiama Inter? Allora, intanto io gli do 8.5 anche perché ha avuto le incomprensioni con Lotito. A parte gli scherzi, credo siano due discorsi diversi. Per me Pioli è un ottimo allenatore, è un allenatore che ha fatto molto bene nella Lazio, dove adesso, al di là degli scherzi, l'atmosfera è terribile, cioè non è facile andare ad allenare la Lazio, perché comunque sia ti chiama un presidente, ti chiama una società e tu hai dei doveri ovviamente aziendali. Da questo punto di vista devi fare bene il tuo, sai che hai pochissimo pubblico, quindi non c'hai neanche questa grande attenzione, devi fare il tuo lavoro chiudendoti veramente nelle mura di una stanza e pensare solo a te e ai tuoi ragazzi che vanno in campo. Fin quando ce l'ha fatta Pioli è stato bravo e ha addirittura, e ti assicuro che è un miracolo, perché vedi che anche con l'ottimo lavoro adesso di Inzaghi la gente non va, lui l'ha riportata dopo anni. Lazio-Empoli è il record degli ultimi 9 anni, un anno e mezzo fa. Poi qualcosa è successo, evidentemente non si è sentito più protetto, la storia, questo è divertente perché poi uno dei motivi in cui si sono create fratture negli spogliatoi è questa famosa favola della fascia di capitano, che doveva andare a Candreva e portare la biglia, e ora se va all'Inter si ritrova Candreva, scelto da Mancini. Ci mette un attimo a fare la pace con un grande giocatore. Ma Candreva è comunque un introverso, un ragazzo particolare da questo punto di vista, che tra l'altro a me piace anche la sua sensibilità, però non è tantissimo facile. Poi tu mi hai chiesto se lo vedi bene all'Inter. Pioli lo vedo bene dovunque. Bisogna vedere come lo accettano però i tifosi dell'Inter, che chiaramente cercano anche un'internazionalità oltre che una bravura. Questa è anche la società. Solo i pazzi potrebbero accettare una soluzione, bene, una soluzione diversa. Immaginati il Tata Martino, i nomi che si stanno facendo, compreso Marcelino, ex Villarreal, o lo stesso Hiddink. Quindi secondo me tutti i tifosi dell'Inter, attendo conferme, insomma, accetterebbero nel migliore dei modi Stefano Pioli, il cincinnato. Convinto, no? Tu dici di no? Ma, non sono convinto, sai perché? Perché Pioli ha avuto questa annata con la Lazio. E a mio avviso già da prima meritava molto di più, sia chiaro, non è un discorso, è un discorso solo di quello che esce come immagine, però io ritengo che poi il tifoso per l'Inter, che deve ridecollare, si aspetta comunque un nome importante. Io infatti ritenevo che il favorito in tutta questa vicenda, non parlo del mio favorito, parlo del favorito in assoluto, fosse Blanc, perché comunque era uno che aveva allenato una nazionale a Paris Saint-Germain, e quindi la società dà l'impressione di non prendere un traghettatore, ma di prendere ancora una volta uno con cui voler costruire qualcosa di molto importante. Quindi ne parlo proprio solo per questioni psicologiche e non tecniche, perché a me Pioli piace molto, piace molto. Ho capito. Michele, ti ringrazio, ci sentiamo. Grazie presto. A voi e buon lavoro. Grazie, un abbraccio Michele Plastino. Ciao. Allora, noi, come annunciato in precedenza, oggi ci fermiamo qui perché giornata di festa, c'è questo filo rosso che lega tutta la giornata con tre appuntamenti dedicati a Dylan Dog, il secondo dei quali, prima in mattinata, il secondo dei quali andrà in onda proprio dopo il GR. Intanto io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e vi do appuntamento ovviamente a domani alle 14. Ci vediamo domani. Enjoy!